La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori. Oscar Giannino vi saluta in diretta qui dagli studi della Radio 24 di Milano. Sono le 16:30 primi, anzi 31 primi in questo secondo. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, chiocciola radio24.it, e va subito all'argomento del giorno, rivolgendovi una domanda per vedere se volete telefonarci e dirci la vostra opinione all'800 24 0024. Il numero per gli sms invece è sempre lo stesso, 349 238 6666. Poiché è una puntata sugli aggiornamenti in corso in Grecia, sulla vicenda greca, non solo in Grecia come vedrete, perché ci sono due aggiornamenti, uno su quello che sta succedendo politicamente ad Atene, e avremo un collega che sta lì, ce lo racconta, e poi c'è una complicazione, diverse complicazioni ulteriori che stanno avvenendo sulla scena internazionale. Parleremo di questo aggiornamento che il Fondo Monetario Internazionale ha mandato a trattativa chiusa a tutti i governi della trattativa, e in cui nega fondamento ai numeri della trattativa stessa. Lo ha mandato a trattativa chiusa, e come si capisce questo non aiuta certo i voti del Parlamento greco e degli altri 7 parlamenti delle euromembri dei paesi creditori, che devono avvenire entro venerdì. E vado subito alla domanda. La domanda ovviamente a voi non è sugli aggiornamenti in corso, è su come la pensate su una faccenda che riguarda proprio il voto dei parlamenti, perché oltre a quello greco dovrà votare entro venerdì il parlamento tedesco, quello francese, quello austriaco, quello dei paesi baltici, quello finlandese. La domanda è: perché da noi in Italia non solo non facciamo i referendum che si fanno altrove, ce ne sono stati 41 sui diversi passaggi europei, noi ne abbiamo fatto solo uno consultivo molti anni fa su una cosa del tutto secondaria, negli altri paesi hanno votato su ogni passaggio, in moltissimi paesi con referendum popolari, lo sapete, da noi non si può fare con la Costituzione, ma almeno in Parlamento perché non si vota anche nel nostro paese e tutti si assumono le proprie responsabilità di fronte agli elettori, ai contribuenti, quando sono in ballo miliardi e miliardi di decisioni così dubbie come quella dell'accordo in corso. Lo fanno i francesi, lo fanno i tedeschi, lo fanno i finlandesi, lo fanno gli austriaci. In Italia no, non è previsto neanche questa volta un voto del Parlamento. Non solo ci sono miliardi dei contribuenti in gioco, ma ci sono delle scelte storiche in gioco, e io sono curioso di sapere se per voi de plano va così scontato, dove sta scritto che non si deve votare neanche in Parlamento in un paese in cui neanche ci fanno fare i referendum, oppure se per voi in questo caso la delega di responsabilità del governo è piena e giustificata e quindi i governi valutino, decidono, e noi, a differenza di tanti altri paesi, è meglio che non votiamo neanche in Parlamento. Quindi chiamateci all'800 24 e diteci come la pensate. Nel frattempo in Grecia gli ultimi sviluppi di queste ore sono due. Uno sono le dimissioni della viceministro dell'economia, e il secondo, battuto dalle agenzie qualche tempo fa, è relativo al voto che c'è stato al comitato centrale di Siriza, e su 201 componenti pare che 109, quindi più della maggioranza dei componenti dell'organo di Siriza, abbia votato no all'accordo. La faccenda è complicata dal fatto, ve lo riassumo in 30 secondi, che il Fondo Monetario Internazionale lunedì pomeriggio, a trattativa chiusa, ha mandato ai governi dell'Eurozona, cioè a quello greco e a tutti gli altri, un report riservato, aggiornato, sulle stime di sostenibilità del debito greco. L'ha mandato a trattativa chiusa. L'ultimo aggiornamento che il Fondo Monetario Internazionale aveva fatto delle stime di sostenibilità del debito greco e del fabbisogno quindi finanziario necessario alla Grecia, datato il 26 di giugno, era stato rilasciato in pubblico il 2 di luglio e già aveva fatto molto discutere, perché lo sapete, il Fondo Monetario Internazionale è della posizione che in realtà la richiesta greca di abbattimento, del secondo abbattimento di una quota rilevante del suo debito pubblico dopo quello del 2012, questa volta in mano a creditori sovrani, cioè quelli dell'euroarea, sia giusto, e già aveva fatto molto discutere questo suo rapporto del 2 luglio. Ieri, a trattativa chiusa, il Fondo Monetario ha mandato un report rapporto riservato ai governi dell'euroarea, riservato e non approvato dall'executive board del Fondo Monetario, in cui si fa una revisione della stima di sostenibilità del debito pubblico greco, una revisione molto pesante, perché si dice che per effetto del disastro avvenuto nelle ultime settimane con la chiusura del sistema bancario greco, il blocco del sistema dei pagamenti e quindi la perdita di punti di PIL, che oggi nessuno è in grado di giudicare bene, ma potrebbe arrivare fino al 4% del PIL quest'anno, le conclusioni del Fondo Monetario sono che quanto sta scritto nell'accordo ed è concesso alla Grecia, cioè gli 86 miliardi più 35 miliardi di accesso ai fondi di coesione europei, in cambio del voto, lo sapete, no? Entro stasera delle quattro riforme, poi entro il 22 della riforma del codice di procedura civile, eccetera, eccetera, eccetera, in realtà non è affatto quello che basta per la Grecia, perché questa revisione delle stime di sostenibilità del debito greco arrivata ai governi a trattativa chiusa dice: noi stimiamo che il debito pubblico greco al 2017 non sarà più il 177% del PIL, ma il 200%. Ergo, cari paesi dell'euroarea, le alternative sono due. Primo, dovete riconoscere un abbattimento molto serio del debito pubblico greco, altrimenti la Grecia non sta in piedi e non diventa solvibile. L'alternativa è che voi accettiate l'idea di abbattere ulteriormente i tassi bassissimi già applicati alla Grecia, praticamente li dovete portare a zero, ma con un orizzonte trentennale almeno di mancato accesso alla Grecia ai mercati finanziari, e nel frattempo gli dovrete continuare a dare trasferimenti ordinari alla Grecia. Quindi non bastano affatto i soldi che voi avete stanziato nel programma. Capite bene che è una specie di bomba atomica, perché dà armi a tutti quelli che criticano l'intesa avvenuta. Quindi è cherosene sul voto dei parlamenti, su quello greco e su quello di tutti gli altri paesi. In altre parole, il Fondo Monetario si sta ritraendo dicendo: senza abbattimento del debito, la richiesta di Tsipras, in realtà noi non ci stiamo al tavolo, quindi ve la vedete voi, cari eurogoverni. E come capite è uno sviluppo discutibile nel metodo. Ovviamente il Fondo Monetario ha i suoi metodi, e quindi, però contemporaneamente è un'ulteriore enorme incognita sul fatto che davvero questo accordo, al di là che venga alla fine votato dai greci senza alternative e approvato anche dai parlamenti dei paesi creditori, sia davvero la soluzione e non solo l'ennesimo passo avanti di un problema destinato a restare irrisolto. Allora, vediamo innanzitutto gli sviluppi in Grecia. C'è l'ottimo collega della Stampa, Alessandro Barbera, che è appunto ad Atene in questi giorni a seguire gli sviluppi, e dici un po', caro Alessandro, grazie di questi minuti che ci dai, l'aria che tira lì a proposito innanzitutto di questo voto dell'organo direttivo di Syriza. Cosa vuol dire dal punto di vista parlamentare? E poi, seconda domanda, te la faccio subito così poi rispondi: cambia qualche cosa questa stima del Fondo Monetario, che in realtà dà ragione a Tsipras, proprio mentre Tsipras è impegnato ad affrontare i guai di un governo che perde pezzi e di un partito che perde pezzi? Ma la risposta alla prima domanda è che in una situazione normale, in un paese normale dove non vigono le regole, diciamo, dell'avantinismo politico, il voto contrario della maggioranza di Syriza dovrebbe significare la caduta del governo e la mancato accordo con i creditori, quindi sostanzialmente il caos. Dopodiché siamo in Grecia, è un paese nel quale vigono regole un po' diverse, più mediterranee, si dice una cosa e in realtà se ne fa un'altra. La sensazione che almeno io mi restituiscono i fatti in questo momento è questa, cioè l'organo politico di Syriza ha preso le distanze dalla decisione del governo, dopodiché non c'è la volontà specifica di chiedere al governo di dimettersi né di non votare. Il voto ci sarà, è stata chiesta la convocazione dell'organo politico, ma in realtà non ci sarà la convocazione perché il voto deve essere a tutti i costi entro mezzanotte. In sostanza pare che il voto di stasera dovrebbe passare abbastanza agevolmente, almeno di colpi di scena, con la defezione di 30, 40 deputati di Syriza, e probabilmente era necessità di un rimpasto, perché 30-40 significa che a quel punto Syriza non ha la maggioranza da solo, senza il voto appunto di partiti di opposizione. Esattamente, cioè il voto passerà, perché questa è una delle ragioni per le quali Syriza di fatto si sente libera di attaccare tra virgolette Tsipras. Il suo stesso partito sa bene che Nuova Democrazia, il PASOK, tutte le opposizioni democratiche voteranno a favore del memorandum. E quindi, però naturalmente non è che possiamo immaginare che questo non lasci un segno, questo deve essere chiaro. Tsipras sarà costretto a fare un rimpasto di governo per cambiare i ministri e tutti i pezzi che sta perdendo, e probabilmente dovrà anche fare i conti con, con il suo partito in un secondo momento, e questo ovviamente lo determinerà un maggiore condizionamento. Sarà una traversata molto difficile. Tsipras si è trovato rapidamente da leader visionario, da leader radicale di un partito radicale, a uomo politico leader che chiamato con grande realismo a salvare il suo paese dal disastro. Da parte di recente in televisione sembrava di vedere un consumato uomo politico moderato, perché diceva che l'alternativa a questo memorandum è molto peggiore. Oh, nel frattempo anche i tedeschi si aggiungono al Fondo Monetario, perché il portavoce del Ministero delle Finanze tedesco, questo lo ha battuto pochi minuti fa la versione inglese del sito del giornale greco Ekaterini, e quindi il portavoce del Ministero delle Finanze tedesco, quindi Martin Jäger, ha detto a fine mattinata a Berlino che la Germania comunque si permette di segnalare al governo greco la necessità o l'opportunità di procedere fino a che arriva il prestito ponte, perché il prestito ponte bisogna ancora metterlo in piedi, ma ce n'è necessità assoluta del prestito ponte per far riaprire le banche greche. E il portavoce del Ministero delle Finanze tedesche dice: ma nel frattempo i greci perché non valutano davvero la possibilità di emettere dei pagherò per procedere regolare intanto gli obblighi inevasi di finanza pubblica? Stiamo parlando del pagamento delle pensioni e del pagamento delle retribuzioni pubbliche. Voi capite che anche questo non è esattamente, cari ascoltatori, una dimostrazione di costruttiva da parte tedesca, perché se malgrado l'intesa che il Parlamento vota con quello che Alessandro Barbera ci ha appena detto, se le cose è ragionevole pensare che vadano così, la Grecia dovrà emettere dei pagherò che a quel punto perderebbero immediatamente valore sul mercato secondario rispetto all'euro, vuol dire che qualcuno in Germania spera che alla fine sto voto non ci sia. Però questa naturalmente è la mia impressione. Ma questa nuova release arrivata ad accordo chiuso da parte del Fondo Monetario lì in Grecia non suscita nessun dubbio rispetto alla necessità di andare avanti comunque, Alessandro? Ma sai, qui c'è siamo dentro un po' una maionese impazzita, perché in realtà la manovra che Tsipras oggi farà votare al Parlamento, posto che peraltro va ricordato esclude per il momento la riforma delle pensioni, e infatti è una manovra che aumenta le tasse ai più ricchi, quindi Syriza avrebbe ottime ragioni per sostenerla. L'argomento del Fondo Monetario è un argomento fondamentale in sede europea, qui naturalmente ha un rilievo diverso, ma se deve avercelo e se ce l'avrà, io credo che non è perché non è un argomento che serve a far saltare la trattativa. A me sembra, e anche le modalità con le quali questo report riservato è uscito, che il fondo sta cercando di dare una mano ai greci e a coloro i quali pensano che non c'è alternativa a questo accordo se non attraverso una revisione, un taglio netto del debito pubblico greco. Il problema politico è enorme, naturalmente, perché è un argomento assolutamente tabù finché non votano i sei parlamenti, sette se non sbaglio voterà anche la Spagna, sì, che devono votare per dare il via libera al memorandum. Quindi io penso che in questa fase, posso sbagliarmi, ma io penso che ci sia in fase in atto un enorme gioco delle parti in cui ciascuno recita a soggetto per cercare di addivenire ad un accordo, o come dire quanto. Beh, più che altro il Fondo Monetario sembra tirarsi indietro dall'ipotesi di accordo, perché la conclusione che si ricava da questo rilascio ad accordo chiuso è che il Fondo Monetario, sia pure, ripeto, con una revisione della stima non approvata dall'Executive Board del Fondo Monetario, quindi con questa ulteriore riserva del gioco delle parti, però diventa la posizione di chi dice: cari ragazzi, non chiedete soldi a noi o assistenza a noi, alla Grecia, visto che non siamo d'accordo sul fatto che non gli avete garantito l'abbattimento del debito. E tenuto conto che nella pagina dei preliminari dell'accordo invece sottoscritto dai governi dell'Eurozona con la Grecia c'è scritto che a giudizio dei creditori europei il ruolo del Fondo Monetario era imprescindibile per questo accordo. Il Fondo Monetario, mi pare di capire, Alessandro, che la pensa diversamente. Sì, sì, su questo non c'è alcun dubbio, naturalmente noi non abbiamo la certezza che andrà così, ma non c'è dubbio che questo potrebbe essere un segnale del fatto che il fondo non accetterà di partecipare alla ricapitalizzazione, al piano di salvataggio per la Grecia. Salvataggio. Però naturalmente non si può escludere che questo non serva in qualche modo a cercare di svegliare, come dire, il torpore tedesco, ma troverei in questa fase molto difficile immaginare che appunto i tedeschi possano in maniera esplicita discutere di un argomento del genere. Io penso che siccome peraltro tutta questa partita è una partita che si giocherà, andrà avanti per almeno un mese, lo diceva stamattina anche qui in, in aula Parlamento il ministro Tsakalos, è probabile che ci vedremo delle nuove puntate, siamo solo una lunga serie di puntate di non c'è dubbio, condivido molto quello che stai dicendo, non si chiude niente con questo accordo, inizia una lunghissima discussione, perché nelle more della definizione da parte dell'SM di questa cosa il problema dell'abbattimento del debito resterà, questo è poco ma è sicuro. Credo anche che buona parte della scommessa di Tsipras nel recitare la parte moderata di questi giorni che contraddice il suo referendum sia esattamente fondata su questa certezza. Allora intanto ringraziamo Alessandro Barbera da Atene che ci ha dato questa visione e alcuni minuti del suo prezioso lavoro e torniamo tra un minuto con un'altra voce per commentare questa posizione del Fondo Monetario e le vostre telefonate di risposta alla domanda: ma è giusto che si vota nel Parlamento francese, tedesco, spagnolo eccetera eccetera e nel nostro mai? No, perché? Sentiamo come la pensate, ma intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:48 primi, a parlare di sviluppi in Grecia. Da una parte la maggioranza dell'organo politico di Syriza che dice no all'accordo, ma avete sentito Alessandro Barbera della stampa di là che dice comunque l'accordo passerà in Parlamento stanotte. Certo, Tsipras si potrebbe trovare, se sono più di 40 quelli che lo lasciano il suo partito nel voto, con un governo di minoranza, si vedrà che sviluppi, ma Tsipras va avanti. Nel frattempo questa release del Fondo Monetario Internazionale delle stime di sostenibilità del debito greco, rilasciata a trattativa chiusa in aggiornamento di quella dello scorso 2 luglio, che ulteriormente ribadisce, guardate, quello che voi state dando alla Grecia non basta minimamente, perché bisogna dargli un abbattimento ancora più serio del debito pubblico greco, come in realtà chiede Tsipras e come finora gli si è negato da parte dei creditori europei. Altrimenti l'alternativa è che voi, cari creditori europei, gli diate 30 anni almeno di tempo per non accedere ai mercati, quindi gli dovrete dare trasferimenti molto superiori per tenere la pieda la Grecia in piedi. Ecco la sintesi di questa cosa, che obiettivamente cade come cherosene sui voti dei parlamenti in corso, cioè non solo quello greco ma degli altri 7 paesi che devono votare sull'accordo, i paesi europei creditori tra cui il Parlamento spagnolo, quello tedesco, francese eccetera eccetera. Allora abbiamo con noi per commentare soprattutto questo sviluppo del Fondo Monetario che pare dire noi non ci sediamo al tavolo, cari europei, perché noi la pensiamo molto più come Tsipras di quanto voi non siate pronti a riconoscerli e quindi non chiedeteci però di partecipare all'ipotesi di sostegno straordinario di ricapitalizzazione delle banche greche eccetera eccetera. Allora Giacomo Vaciago, che insegna economia politica alla Cattolica, è il presidente di REF, del centro ricerche REF, che scrive anche per il Sole 24 Ore. Buon pomeriggio professor Vaciago, e ci dica subito come la pensa lei di questa strategia del rilascio ad accordo chiuso di nuove stime da parte del Fondo Monetario, che da una parte sembrano dire agli europei ma che cavolo avete trattato, non state dandogli quello che serve davvero, e dall'altra dicono però non chiedete a noi soldi. Lei che ne pensa? Beh, anzitutto che prima di parlare bisognerebbe leggere. A pagina 6 del documento datato 12 luglio, sì, anche se poi è stata approvata nelle prime ore del 13, a pagina 6 leggo che a condizione che tutto ciò che precede sia stato fatto, ok, sì, riparleremo di manovre straordinarie sul debito. Esatto. E quindi questa è la posizione. Non è che non lo sapessero, dai, non... Questa storia che a Washington dicono che Merkel e Schauble e tutti gli altri sono stupidi e non sanno che il debito così com'è è insostenibile, ma lo è da 10 anni insostenibile. Lei sa, anche, lei sa anche, professore, che la penultima frase del documento del 12, cioè dell'intesa, dice esattamente che allo stato attuale haircut nominali del debito però non sembrano possibili secondo le regole europee. Quindi lei dice, in quella frase che ci ha citato lei e in quest'altra che cito io dal documento, c'è tutto l'ipocrita compromesso del dire lo sappiamo cari amici greci che in realtà avete ragione, ma voi fate tutto questo, poi più avanti in autunno se ne riparla, così. Ma questo era già ovvio, cioè insomma, mettiamoci d'accordo, il 12 si trovano due parti ciascuna delle quali non si fida dell'altra e quindi l'accordo, che io chiamo di nuovo un concordato preventivo, sì, come ho scritto sul Sole, sì, esatto, è del tipo i creditori Il concordato preventivo è un meccanismo che evita il default a condizione che il debitore si comporti bene. Sì. Adesso abbiamo un periodo, diciamo, le date sono indicative, spero che un giorno in più o meno non cambi. Sì, ecco, molto. Appunto, spero che non siano poche ore oltre la mezzanotte a far saltare tutto. Anche il creatore ci ha messo più di un'ora a fare il mondo e noi rischiamo di disfarlo in poche ore. Allora, torniamo alla sostanza. Fa qualcosa nei prossimi giorni una maggioranza che si riconosce in Tsipras, qualunque essa sia, attenzione, sì. Il referendum ha fatto fuori Tsipras, non Tsipras, che è il vincitore del referendum, che si ripresenta con un mandato a Bruxelles, stavo dicendo a Francoforte, sì, beh. Comincio a confondermi, che si ripresenta a Bruxelles con un mandato, ho vinto il mio referendum, i greci si fidano solo di me. Quindi negozia un accordo che è un compromesso, come ogni accordo, certo. Necessariamente. Questo discorso del chi ha vinto quando si è il 19 che si gioca è duro sapere chi ha vinto, è ancora più duro sapere chi ha perso. Il problema vero è che adesso c'è un periodo delicatissimo in cui le cose che da 5 anni la Grecia scriveva nei suoi memorandum prova a farle. Addirittura il codice civile, sì. Io pensavo che un paese normale ce l'avesse un codice civile, ho scoperto da queste 7 pagine che si sono impegnati in una settimana ad approvare un codice civile. Il codice di procedura civile, sì sì, perché bisogna cambiarlo. Perché se no la giustizia non funziona, faranno la riforma, non so se la chiameranno Fornero, non so come si dica Fornero in greco, però intendo dire, devono fare la riforma dei... La lista è infinita. Cioè, del mercato del lavoro devono fare un mare di cose, no, ma, fiducia tra... che sia un compromesso, lo dico a chi ci ascolta, è confermato dal fatto che nel testo che verrà votato dal Parlamento stanotte greco, l'anticipo della riforma delle pensioni dal gennaio 2016, che c'è nell'accordo europeo, non c'è, e mentre qualcuno si aspettava che a questo punto i tedeschi insorgessero, Tsipras ha avvisato i tedeschi: guardate, voi lo mettete nel memorandum, ma io al mio Parlamento quello non lo metto, quindi poi se ne parla, e nessuno sta insorgendo, quindi a maggior ragione bisogna fidarsi di quello che dice il professor Vaciago. È un compromesso e si vedrà nel tempo, per così dire. È una buona sintesi, professore? Sì. No, è un compromesso all'insegna di due principi che se non li condividiamo prima usciamo dal mondo, non solo dall'Europa, e meglio è. Uno è che l'Unione è sovranità condivisa e l'altro è che il modello scritto nel Trattato di Lisbona è l'economia sociale di mercato. In altre parole, il mercato con abbastanza welfare da soddisfare sia i liberali che i socialisti. Difficile, cosa difficile da realizzare, ma in questo vedremo. Allora, ringraziamo a voi il professor Baciago, saggio e che invita tutti a non pensare che sta esplodendo tutto. Le difficoltà sono evidenti sotto gli occhi di tutti. Vedremo se il Fondo Monetario resta al tavolo, malgrado quello che ha detto. Rapidissimamente un po' di vostra opinione. Alessandro da Vicenza, votare in Parlamento sì o no anche in Italia? Alessandro, pronto? Ci sei? Sì, pronto. Lei che dice? Votare in Parlamento italiano come quello tedesco e francese oppure no? Ma secondo me sì, sarebbe da fare, anche perché, se posso dire una cosa un po' più ampia, ho sempre l'impressione che sempre di più l'Italia sta diventando come un acquario, nel senso che ci sono dei confini di vetro che noi non vediamo e la nostra democrazia all'interno di questi confini si riduce sempre di più. Ok, opinione chiara. Giusi da Genova, come la pensa Giusi? Votare io in Parlamento sì o no? La penso come il mio precedente signore. Anche lei per votare. Io vorrei assolutamente che almeno il nostro Parlamento votasse e ogni tanto anche noi che dicessimo qualcosa non sarebbe male, perché mi sento proprio una suddita in questo periodo. Bravo. Una suddita completa. Bravo Giusi. Alessandro da Milano, non ce la fa, mi stanno chiudendo. Oggi chiudiamo anche prima. Grazie a tutti, continuate con la TV24, appuntamento con me a domani.